Pane, burro e rock and roll. Sono le 7 e 30 minuti primi. Da una Milano senza pioggia a tutte le altre città sotto la pioggia, il grido è uno solo: let the sunshine. Let the sunshine. Let the sunshine in. The sunshine. Buona giornata, restate con noi. Un po' di messaggi, via. Allora, ieri in televisione passa uno spot di una nota marca di cereali, ambientato in una radio con tanto di DJ baffone che un po' ti assomiglia. Al posto della controfigura potevano prendere te. Ti rendi conto? Ti copiano pure, maledetti pubblicitari. Sai che non so di... Ultimamente non ne sto guardando tanta di televisione, ma controllerò, grazie. Potevo anche fare un lavoretto, se mi chiamavano magari mi davano anche qualche lira effettivamente. Vabbè. Saluti a Luca, qualche giorno vi porto le brioche in radio, ok? Ma porta quello che vuoi in radio, guarda. Tangenziale Ovest già colma. Più che l'asfalto c'è qualcos'altro in questa giungla. Code, ma basta un auricolare, autista di Firenze, siamo con te. Lemmy da Scandicci. Dopo quanti test esatti si prende la patente da vero rocker? Ne basta uno solo, Lemmy. Però deve essere quando ci siamo io e Freak. Ci siamo un po' impantanati in quella cosa, eh. Però ci inventeremo qualcosina. Invitateci voi nelle vostre città e verremo a portarvela. Intanto è ottima l'idea di Mike, invece, che scrive: potreste fare un foglio rosa davvero rocker via mail da sostituire con patente alla prima occasione. Soffro nel non averla. Ciao Mike! Sai che è un'idea forte questa? Sembra ottima l'idea. Saluti anche al patentato 604 che si chiede: ma quante ne avete autenticate? È più o meno quella cifra lì, fa. Le abbiamo potute dare solo due volte, però ci impegneremo. Poi ci sono un paio di idee per rubriche nuove, ragazzi, da sciacquarsi la bocca. Restate con noi. Oggi ne sentirete delle belle. Un saluto anche a Casta. Oggi è la puntata 129 e scrive soltanto: è lo stesso numero della mia patente. We'll be right back. Floyd from Mr. Floyd. Will you accept the charge from the United States? Servizio a favore del radioascoltatore. Il ritardatario ritardato. Non frapponete alcuna remora morale tra il problema e la sua soluzione. La scusa di oggi, interpreta il maestro di giustificazioni Roberto Fricantoni. Direttore, mi scusi se l'affronto così, da uomo a uomo, ma io stamattina ho bisogno del suo perdono, del suo ma come sono eccitato? Assolutamente, direttore. Io no, non sono nemmeno agitato. Io sono in ritardo, lo ammetto, lo riconosco da uomo. Ma lei mi deve ascoltare, lei mi deve capire. Io sono in ritardo perché ho avuto mal di testa tutta la notte. Sì, e quando si è trattato di prendere la pillolina contro il dolore al capo, la famosa aspirina, mi sono sbagliato e ho preso le altre pilloline, quelle pillole blu che rispondono al nome di, mi pare, Viagra, qualcosa del genere. Le assicuro che è una situazione ingestibile, ingestibile. Mi aiuti lei, direttore? Il ritardatario ritardato, non dimenticate. Una buona scusa è quello che ci vuole per qualsiasi ritardo doloso. È un servizio a favore del radioascoltatore offerto da Rock FM. Come dice, direttore, indecente perché sono bagnato dalla testa ai piedi, perché ho il ghiaccio dappertutto. L'ho dovuto fare una doppia caraffa di cubetti di ghiaccio sulla testa. E ancora non ce l'ho. Lei ha una doccia in ufficio, direttore? Me la presti, me la presti, glielo chiedo da uomo a uomo, me la presti! E beh, che c'è? My turn, the circle game is brought here. Ain't a woman. tante le rubriche, forse troppe, all'interno di questo programma radiofonico, ma non sarà mai di troppo la rubrica dei compleanni del giorno. E chi festeggiamo oggi 14 novembre? Guardi, glielo dico subito. Nel 1840 nasceva Claude Monet. Grande pittore François, sì. Complimenti a lui. Nel 1893 nasceva Carlo Emilio Gadda, scrittore italiano. Quel pasticciaccio brutto di via Merulana. Nel 1948 nasceva il principe Charles. No, Carlo. Charles. Nel 1952 il giornalista e conduttore televisivo italiano Michele Cocuzza. Ah, che l'anticipava di 2 anni. Vero, vedo che e mi permetta di dirlo, torna. Lei li porta meglio, saranno i 2 anni di scarto. Glielo dirò a Cocuzza e ci resterà molto male. Abbiamo fatto un compleanno del giorno molto soft e lo voglio concludere in maniera soft, sì. Ricordando che nel 1962 nasceva Stefano Gabbana, stilista famosissimo, in coppia con quell'altro, si ricorda? Sì, Gabbana. Sì. Beh, quella coppia un pochino, come dire, dall'altra sponda, sì. Insomma, gay, dell'altra gay. Gay, non c'è niente di male, certo, gli stilisti. Sì, Gabbana sì, e Volta. Quello famoso lei è scemo. Dolce Gabbana. Ah, non Volta, no. È Gabbana. No, ce la siamo giocati anche oggi. Bravo, complimenti. In the USA, John Mellencamp. Questa è la diretta di Pane, Burro, Rock and Roll con l'Ariele Frick Spadino e ovviamente tutti voi là fuori. Spesso e volentieri capita di occuparci dell'annoso problema di essere rock in una, magari in un posto di lavoro dove il rock non è proprio ben visto. A proposito di questo, ci siamo presi a cuore il caso difficile di una nostra amica dalle parti della Versilia che conta, dalla parte della Versilia nel mare che conta. Lei si chiama Luana e fa la hostess in uno yacht gigantesco, ma purtroppo con pochi rockers intorno a lei. Ciao Luana! Ciao! Ma sai che so come si chiama il cane di Stefano e di Dolce Gabbana? No, adesso perdono. Intanto buongiorno. Buongiorno, scusa. Come fai a sapere? Ma perché leggi le riviste di gossip? No. No, lo so perché l'estate delle volte sono accanto a noi e quindi lo chiamano. Abbiamo una radioascoltatrice che d'estate parcheggia il suo. Sì. Lo yacht dove lavora, ecco, mettiamola così, di fianco a Dolce Gabbana. E come si chiama questo cagnolino? Si chiama Rosa. Rosa. Posso anche chiederti che tipo di cane è? Molto semplice, un bastardino, un po' cicciotto. Che tenere. Tanto senti fare Rosa. Tra l'altro, senti, Luana, mi stai facendo venire in mente che quando si avvicinerà il periodo estivo, ammesso e non concesso che noi ci saremo ancora, potresti rivelarti una bomba inesplosa. Senso che, cioè, altro che paparazzi. Cioè, è vero. Vai in giro col tuo yacht. Chiamiamolo il tuo yacht, che c'è frega? Tanto non ci sentono. Esatto. Noi diciamo che è il tuo yacht. Sì. Mi parcheggi di fronte a Dolce Gabbana, potresti. Poi magari a noi di Rock FM non interessa tanto. Ma magari ci rivendiamo un bel gossip, no? È vero, ma io infatti volevo fargli la foto, però no, col telefonino veniva troppo. No, Luana, bisognerebbe organizzarsi e comprare una bella macchina fotografica. Sì, non è questo il problema che vogliamo affrontare con te, anche se ti ringraziamo di averci regalato questa perla. Da adesso tutti noi sappiamo che il cane di Dolce Gabbana si chiama Rosa. Forse lo si sapeva già, ma fa niente, noi non lo sapevamo. Noi vogliamo occuparci del tuo grosso problema. Stare su uno yacht meraviglioso, gigante, un lavoro bellissimo il tuo, però purtroppo circondata da esseri immondi che ti guardano come se fossi una strega, diciamo la verità. È vero, non mi capiscono. Sì, non ti capiscono. Ti fanno scherzi, Luana? Sì, me li fanno. Quello preferito, sì. Mi lasciano in terra. In che senso, cioè, ti lasciano in terra? Perché non scendi molto dalla barca quando lavori, no? Però sì. Ogni tanto magari devi fare una commissione. Scrivo, faccio: ragazzi, mi raccomando, fra 5 minuti ritorno, non mi alzate la passerella. Sì. E loro: no, vai tranquilla. Scendo, faccio 3 passi, mi giro, la passerella è su in cima. Una povera rocker lì abbandonata sul porto di chissà quale. A Monte Carlo. Circondata da. Ma guarda. Ma invece, scusa, non, così, d'amblè, ma invece il VIP è un po' rock? Cioè, ci sono, sì, dei VIP rock? Sì, affronteremo, sì, questo, sì, argomento. Preparati per il prossimo intervento. Sarà, sì, sì. Ma i VIP, ma i ricconi sono rock oppure no? Questo sarà il prossimo. Però mi accennavi che a volte anche tu le combini. Sì, tipo che praticamente ho fatto ascoltare System of a Down, sì, a tutto il porto. Era un porticciolo tipo Santa Margherita, Portofino, questi. Tra l'altro il System of a Down, complimenti, roba bella tranquilla. Sì, ma mi servono perché mi danno un po' di carica. Senti, ma lo fai spesso e volentieri e lo fai apposta? No, le ascoltavo per me, ero nel salone che spolveravo. Ho detto, vabbè, ora non c'è nessuno, ma ascolto la mia musica. Ti vedo, Luana, in questo, vedevi? Salone gigante con il tuo spolverino. Col piumino, ta-ta-ta-ta-ta, mi ascolto il System of a Down, dai, via. Sì. Brava. Sì, però. Sì. E poi niente, a un certo punto li sentivo che erano troppo bassi, sì, li alzo. Sì. E poi dopo un po' passo accanto a una porta e sento che System of a Down venivano dall'esterno. Erano collegati gli altoparlanti esterni alle 2:30 del pomeriggio. Oh mamma mia. Sì, che guarda. È andata bene, si è lamentato qualcuno. Sì. Sì, ok. Sì. Va bene, allora non affondo il dito nella piaga. Grazie mille Luana, ricordatelo, sì, noi siamo lì con te, va bene? Va bene, ok. Preparati per il prossimo intervento, i VIP e il rock and roll. Ok. Ciao cara, a presto. Ciao, grazie, ciao. Yeah. your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who's there. Allenando per fare il chitarrista rock con la bocca, ovviamente. The Bash Mood, questa versione acustica di Personal Jesus, la diretta di PBR, 7:55 minuti primi. Tra una cosa e l'altra non sto riuscendo a leggere i vostri messaggi in diretta, ma tranquilli, vengono tutti custoditi gelosamente dalla nostra redazione e prima o poi qualcosa ci combiniamo. Restate con noi tra pochissimi minuti. Topo Rogna e Topo Frigo, le nostre cavie da esperimento opinioniste. Ciao Rogna, cosa mangi? Scusa, la solita sbomba frigo, però oggi mi sembra un po' più saponita. Cacchio, mi hanno detto che quel Ratatouille del cinema è fortunato. Mangia un sacco di robe buone, può far tutto quello che vuole. Sì, ma pensa Rogna, lui non può sballare come noi. Cosa cucinerebbe se fosse tutto strafatto? A noi ce lo portano direttamente in gabbietta il cibo, anche se non è ottimo. Anzi, a proposito, mi sa che stai mangiando Gastone. Buh, che schifo! L'hanno fulminato ieri per sbaglio in un esperimento, non sapendo che cosa fare della carne, l'ha andata da mangiare agli altri topi. Vomito frigo, vomito, che schifo! Tranquillo Rogna, ti tengo la fronte.